La versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16:08 primi 5 secondi in diretta da una solatissima Milano. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast Oscar Giannino e vi dice subito di che cosa parliamo. Torniamo a parlare di Alitalia perché ci sono nuovi sviluppi, sembra prendere forza. Vedremo in che misura e aspettandosi cosa. In realtà un unico vero canale di offerta su cui i commissari starebbero lavorando per Alitalia, e cioè quello di Lufthansa. E sapete, perché questo lo avete capito, ma comunque ve lo ricapitolo, che i commissari hanno definito fino a questo momento l'offerta, tutte le offerte non soddisfacenti, perché innanzitutto erano offerte che non si riferivano all'integrale perimetro di Alitalia, cioè la parte volo e la parte handling a terra. Qualche settimana fa la trattativa è stata movimentata per il fatto dell'ingresso di questo fondo Cerberus americano, che non aveva partecipato alle fasi preliminari ma si era detto favorevole ad assumere l'integrale, per così dire, la compagnia. E subito i commissari ci sono saliti sopra dicendo, facendo scrivere al giornale: avete visto quindi che c'è qualcuno che è disposto all'integrale. Però pare che anche in quel caso l'offerta non sia soddisfacente. Di fatto quello di cui non conosciamo i particolari, ma che però è diventato materia comune di articoli, è il fatto che inizia un confronto diretto, riservato, tra i commissari e la Lufthansa. E allora il punto è capire dove può portare. Sarà una replica di quello che Lufthansa ha fatto con Swissair in Svizzera, oppure no? Quanto davvero sono disposti ad alzare della loro offerta? Si prendono anche le attività di handling? E soprattutto però la domanda è: in quale eventuale prospettiva di sviluppo della compagnia per rafforzare questa compagnia sul lungo raggio, o come una compagnia di medio breve regionale che serve a integrare esclusivamente il fideraggio degli hub tedeschi? Ecco, sono tutte domande che cercheremo di affrontare, però mettendole anche nel quadro, quindi chiamate 800 24 0024, nel quadro di due alternative diverse. E io su questo vi faccio la domanda specifica per chiamarci all'800 24 0024. La prima prospettiva, parliamoci chiaro, alimentata da quello che pensa la politica fino a questo momento, che non dice una parola sulla cessione di Alitalia e nel frattempo ha dato altri 300 milioni al prestito ponte, quindi diventano 900 milioni di prestito ponte per prolungare il più possibile la trattativa. E solo il ministro Carlo Calenda, che come sapete non è iscritto a nessun partito e dice che non si candida alle elezioni, a dire è comunque un impegno a tempo in vista della cessione. Tutti gli altri stanno muti e fanno chiaramente capire di non essere per niente contrari a ristatalizzarla. E allora a questo punto questi 900 milioni ne diventano la premessa della ristatalizzazione, con tutto quello che ciò significa, cioè significa che molto difficilmente si riesce poi a cambiare il modello che ha già portato a sbattere la compagnia prima sotto gestione pubblica e poi sotto gestione privata. E questa è l'ipotesi A. Ma voi sareste favorevoli a rinazionalizzarla dopo tutto quello che è successo alle nostre spalle e la doppia esperienza fallimentare sia del gestore pubblico italiano che dei soci non industriali, non del settore italiani, coadiuvati dalle banche e poi con l'ingresso di Etihad? Sareste favorevoli a questo? Davvero? Ditemi perché, se immaginate che bisogna nazionalizzarla, cioè tornare indietro con l'orologio facendo finta di non vedere quello che è successo. Avrete capito che io sono contrario, però non posso nascondermi sul fatto che la stragrande maggioranza della politica sembra invece voler andare in quella direzione. Ma per fare cosa a quel punto? Seconda opzione: non è invece il caso di essere realistici, e cioè di assumere come idea che se l'attuale gestione in concordato e col commissariata dell'azienda è arrivata a quel punto, e ci è arrivata perché si è in condizione di default, E allora, se è arrivato a essere condizione di default, il prezzo, le condizioni di vendita, dove si è mai visto al mondo che lo fa chi cede invece del mercato? E non è meglio a quel punto accettare le idee su chi decide, sia pure al prezzo che dice lui, si può trattare un po', di proporre uno sviluppo diverso e un modello diverso, ma mettere un punto una volta per tutte su questa pluridecennale vicenda di perdite di Alitalia? E questa è l'ipotesi B. Telefonateci e diteci come la pensate. Allora, il primo ospite è quello che non solo ha le competenze tecniche, perché insegna sì finanza pubblica all'Università Bicocca di Milano, ma si occupa di economia dei trasporti e di Alitalia da anni e anni e anni, spesso lo chiamiamo, il professor Ugo Arrigo, che ringrazio di essere reso disponibile anche oggi pomeriggio. Grazie di essere con noi, professore. Grazie a voi, grazie a voi. Ma perché il professor Ugo Arrigo ha in atto una ricostruzione che a me è risultata strepitosamente interessante, che tenta di capire ma il disastro post 2008 è un disastro che si genera dal 2008? No, sappiamo di no. Il disastro pubblico prima di quello del 2008, a cui si somma quello del 2008, di che cosa è figlio, se andiamo a vedere retrospettivamente l'andamento della compagnia dal 47, quando nasce, decennio per decennio, visto che abbiamo tutti i dati di bilancio e visto che il professor Ugo Arrigo ha naturalmente il dato degli andamenti delle altre compagnie nel segmento internazionale, lungo raggio, e lo sviluppo del mercato dei passeggeri e dell'andamento dei costi di ciascuno, da cosa nasce il più del problema che ci ha riportato dopo le illusioni del 2008 puntualmente alla condizione di partenza? E devo dire che questa è la cosa su cui inizierei col professor Arrigo, prima di arrivare alla questione che cosa ci possiamo aspettare da Lufthansa. Perché, professor Arrigo, diciamolo chiaro, per lunghi anni all'inizio la gestione pubblica fu una gestione molto oculata, con ottimi risultati, no? Con ottimi risultati finanziari e con ottimi risultati industriali, quindi voglio dire, sarebbe l'esempio in grado di convincere qualsiasi liberista, come siamo classificati noi, rispetto all'intervento pubblico. Insomma, se l'intervento pubblico fosse tutto così, l'Italia dei primi 30 anni e noi, insomma, liberali, liberisti in economia, avremo poche frecce al nostro arco. E peraltro l'Italia, la vecchissima Italia, nacque e fu gestita per una ventina d'anni. Il presidente fu Niccolò Carandini, che era un noto esponente politico liberale, della sinistra liberale, poi fondatore del Partito Radicale. Quindi, insomma, da liberale di sinistra come sono io, mi riconosco in quella figura, che è molto bella. Denotando tra l'altro che nei primi anni della Repubblica, nei primi due decenni insomma della Repubblica, i partiti di maggioranza e di governo non chiamavano manager tra virgolette politicamente asserviti, e infatti i risultati parlavano chiaro, perché stiamo parlando di una compagnia che non solo produceva utili e ampi margini, ma che crebbe nel mercato internazionale fino ad arrivare a vette altissime nel ranking dell'epoca. Io ho fatto due puntate, sto ricostruendo, io conosco l'Italia dagli anni 90 e poi soprattutto da studioso, ma soprattutto dagli anni 2000, perché nel 2004 il governo di allora mi chiese di fare uno studio sulla problematica dell'Italia nei primi anni 2000. Quindi mi mancano dei pezzi, quindi non li ho studiati, ero ragazzo, mi interessavo il trasporto aereo, ma non certo dal punto di vista economico. Quindi sono ripartito dal 47, ci sono i numeri, sono molto interessanti, e la cosa stupefacente che ho scoperto è che nei primi anni 70, quindi alla vigilia del primo shock petrolifero, Alitalia aveva più dipendenti di adesso, ne aveva quasi 15.000. C'è un bellissimo report di Mediobanca con una postilla scritta personale di Enrico Cuccia, una delle pochissime cose che lui abbia scritto in prima persona pubblicate, perché poi qualche anno prima loro avevano seguito la quotazione in borsa di azioni privilegiate dell'Italia, quindi è stata una delle prime aziende europee a quotarsi in borsa seppure con le sole azioni privilegiate. A fine anni 60 era la prima compagnia europea a volare solo con jet, quindi con flotta modernissima. Nel 72 io ho scoperto che la sua flotta a lungo raggio era più grande di quella di adesso, aveva 29 aerei a lungo raggio, adesso l'Italia ne ha 25. Però il problema è che dal 72 ad oggi il mercato italiano del trasporto aereo si è moltiplicato per 9, e quindi noi oggi dovremmo avere una flotta intercontinentale continentale, fatte le debite proporzioni, di tra i 150 e i 200 aerei, ne abbiamo 25. Quindi vuol dire che tutti i passeggeri trasportati da altri continenti verso l'Italia e viceversa, principalmente non volano dall'Italia, ma lo fanno da altri hub europei, quindi da Parigi, da Francoforte, da Amsterdam o da Londra. Quindi però ecco, la cosa interessante, andando retrospettivamente indietro, quella nota era del 73 di Enrico Cuccia, se non sbaglio, uno dei luoghi comuni spesso ripetuti nella ricostruzione dell'origine dei primi rilevanti problemi nei bilanci dell'Italia, che a quel punto cominciano ad andare in rosso, sia pure con cifre che non sono paragonabili alle centinaia di milioni di ogni anno, sia pure depurati dall'effetto nominale, però inizia dagli anni 70 ad andare, però molti hanno scritto più volte, beh, è l'effetto della crisi del petrolio, e quindi una crisi dell'offerta, uno shock che determina una modifica strutturale di una delle voci di costo incomprimibile, visto che per far volare gli aerei devi comprare il carburante. E invece, ovviamente, abbinata all'esplosione dei costi della componente lavoro per il post 1968, che come in tutta Europa, la parte molto avanzata, ma anche in Italia, si fa sentire e in effetti porta su il valore della componente costo lavoro per l'Italia. E invece, guardando i bilanci, cosa si scopre? No, che non è assolutamente vero. Sì, i salari crescono dopo il 69, crescono però in maniera proporzionale alla produttività, quindi il costo del lavoro per unità di prodotto, se in questo caso è il passeggero che vola un percorso standard, rimane costante, e quello che invece cala sono i ricavi, perché aumenta moltissimo l'offerta e la concorrenza. Quindi quello che è avvenuto allora è un qualcosa di simile a quello che è avvenuto negli ultimi 10-15 anni con la liberalizzazione. Perché già all'epoca il segmento internazionale, mentre il mercato italiano era ancora monopolizzato dall'Italia, sul mercato internazionale l'esplosione che arriva inizia a vedere un'Alitalia che non riesce a tenere ritmi concorrenziali di crescita come quelli che avevano contrassegnato i suoi primi 20 anni. Esatto, sostanzialmente ci riesce, diciamo che subisce la concorrenza di grandi vettori dei paesi partner, quindi il Nord America, gli Stati Uniti, eccetera, grandi paesi europei, e però per mantenere le quote di mercato e per riempire quel punto comprano i primi jumbo ad alta capacità di trasporto, devono abbassare i prezzi. E quindi nell'arco di 5-6 anni i prezzi calano di una certa cifra, mi pare un 20-25%, e quindi questo favorisce moltissimo l'aumento dei passeggeri, l'aumento dei traffici, che in 5-6 anni, tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70, sostanzialmente raddoppia. Quindi una grande crescita del mercato trainato dalla concorrenza e dall'aumento dell'offerta. È un qualcosa di simile a quello che noi abbiamo vissuto nell'ultimo decennio con i vettori low cost. Però l'Italia sì, è andata in perdita, ma è sopravvissuta, quindi ha comunque poi superato le crisi petrolifere, ha ripreso a crescere, quindi sino a metà degli anni 90 comunque è riuscita a essere all'altezza, e sulla base dei calcoli che ho fatto, che non sono definitivi, quindi devo un attimo rivedere, ma fino a tutta la decisione di chiudere l'IRI, accordo Andreata Van Miert del dicembre 93, sostanzialmente le perdite di Alitalia accumulate dal 47 attualizzate oggi sono piccole, e se consideriamo anche che lo Stato ha incamerato le tasse pagate sui profitti societari da Alitalia, sostanzialmente lo Stato non ci ha perso. Quindi fino all'inizio degli anni 90, sia pure con difficoltà crescenti dagli anni 70 in poi, difficoltà però non dovute ai due criteri tradizionali che abbiamo detto e che sono stati assunti più volte nella ricostruzione ex post, non bilanci alla mano di Alitalia, cioè il costo del petrolio e il costo del lavoro, però nella realtà fino agli anni 90, nel dare avere, semplifichiamolo così, dello Stato azionista nei confronti della sua compagnia rispetto i soldi che ci aveva messo, a quelli che generava come risultato, cioè sempre col segno più per decenni e poi con l'inizio del segno meno negli anni 70, e rispetto alle imposte che ci ricavava, in realtà fino ad allora, sia pure con difficoltà crescenti negli ultimi 15 anni, però fino all'inizio degli anni 90, il giudizio che critici come noi dello Stato che gestisce potevano dare era un giudizio aperto al fatto fatto che, così come nella lunghissima prima fase di Alitalia i risultati erano stati straordinari, ma anche gli elementi di difficoltà che erano intervenuti successivamente erano ancora in qualche misura raddrizzabili, sia pure con in presenza di una crescita di molti vettori europei di altri continenti nella componente del volo internazionale. Poi cosa succede all'inizio degli anni 90? Ma sostanzialmente c'è il passaggio, a un certo punto c'è la decisione di chiudere l'IRI nel 93, l'IRI viene chiusa. Alitalia passa al tesoro nel 2000, il grosso delle perdite dell'Alitalia inizia dopo il 2000, quindi inizia da quando Alitalia viene gestita direttamente dal tesoro. Nel momento in cui le imprese pubbliche residuali non privatizzate passano in proprietà diretta al tesoro, diciamo così, la logica di allora era che fossero imprese destinate abbastanza rapidamente alla privatizzazione e quindi passano al tesoro in un'ottica di partecipazione finanziaria e non più industriale. Cioè il tesoro non aveva le capacità industriali per valutare attentamente i piani di impresa di Alitalia piuttosto che di altre imprese IRI. E quindi secondo me c'è stata una grossa perdita di capacità di controllo dello Stato azionista su Alitalia, come forse su altre grandi imprese pubbliche, e che invece durante i tempi dell'IRI c'era. Quindi la chiusura dell'IRI è stata forse positiva per alcuni aspetti, ma disastrosa dal punto di vista della capacità di sorvegliare, monitorare e seguire quello che i manager delle imprese pubbliche facevano. Il tesoro azionista perde da solo 5 miliardi dei 6 di perdita totale di Alitalia sino a tutto il periodo di proprietà pubblica. Ecco. E poi arriva il 2008. Ricordo che questa limitazione fu assunta nell'ordinamento italiano all'atto proprio del varo delle privatizzazioni, cioè l'idea che il tesoro restava azionista ma si limitava esclusivamente all'esercizio dei suoi diritti finanziari era oltretutto una foglia di fico, perché poi di fatto così non era, ma in realtà privava il tesoro di strumenti formali nell'indirizzo e soprattutto nel controllo, più che nell'indirizzo, è sempre sbagliato, delle società controllate. E questo quindi pone il grande problema che poi di fallimento in fallimento, sia pubblico che privato, ci porta all'oggi. Allora andiamo all'oggi. Questi 900 milioni, se uno li attualizza e vede i lunghi decenni in cui lo Stato non ci rimetteva e poi vede che cosa ci ha rimosso, sono in termini comparati di altre vicende di compagnie che si sono trovate in queste condizioni in Europa, sono paragonabili a un prestito ponte o sembrano la premessa di una ristatalizzazione, secondo lei? Io vorrei essere, diciamo così, un pochino più drastica. Un'idea che mi sono fatta in questi giorni, e l'idea che mi sono fatta è questa: che noi di fatto all'Italia l'abbiamo già nazionalizzata. Cioè, guardando ex post, quell'aumento del prestito ponte da 600 a 900 è una nazionalizzazione fatta a nostra insaputa, cioè non ci hanno detto che stavano nazionalizzando l'Italia, ma di fatto. All'Italia, diciamo, i soldi ce li mette il tesoro, sono del contribuente, sono apparentemente in prestito, però nel momento in cui l'Italia li usa non torneranno indietro, vuol dire che li sta perdendo. E quindi non è un prestito, ma è sostanzialmente un finanziamento potenzialmente a fondo perduto. Sarebbe stato più esplicito dire: noi mettiamo dei capitali in Alitalia, un aiuto di Stato, ci facciamo autorizzare, spieghiamo perché lo stiamo facendo e poi nel momento in cui... Lei lo sa che a quel punto sarebbe stato pesantemente condizionato, era esattamente quello che la politica non voleva. Però secondo me sarebbe stato più onesto intellettualmente, sì, e poi se non ci autorizzano va bene, a quel punto però l'Italia chiude, però insomma non è stata una scelta nostra. E però anche andare a vedere i conti, quindi perché in due anni di gestione TA del primo anno ha perso 199 milioni e il secondo anno ne ha persi quasi 500? Com'è possibile che da un anno all'altro il disavanzo sia cresciuto di quasi di oltre... Questo lei lo sa meglio di me. La legge in base alla quale abbiamo questo regime commissariale, che è una legge evolutasi nel tempo di fronte a consimili esigenze, autorizza i tre commissari a non darceli i conti e a non aver prodotto neanche il bilancio 2016 della società, cioè quello in base al quale poi si è dovuto commissariarla. Noi non lo sappiamo e mi pare di capire che non lo sapremo mai. Quindi è la negazione di Einaudi, e quindi non conoscere per deliberare. Lei sa che ci avevano detto che in estate stavano andando bene, tanto che praticamente l'integrale del prestito ponte rimaneva liquidità a disposizione della società, e avevano detto che l'estate stavano andando bene. Abbiamo solo saputo recentemente che neanche l'estate è andata bene. Beh sì, intanto il prestito a ponte si è assottigliato, quindi vuol dire che c'è stato un eccesso di pagamenti rispetto alle entrate, e quindi questo è segnale, ovviamente non è segnale di un attivo di bilancio. E poi ci sono elementi di costo che non sono, che non danno luogo a sborsi finanziari, tipo gli ammortamenti, e quelli sono pesanti nell'Italia. Quindi non vedo l'Italia sulla via del risanamento finanziario. Però oltretutto loro hanno ridotto, l'avevano già fatto i precedenti gestori Etihad, hanno ridotto il numero dei voli, quindi oggi l'Italia ha nel mese per mese circa un 6% di voli in meno rispetto a 12 mesi prima. Quindi come facciano ad aumentare i ricavi con il 6% di voli in meno è una domanda alla quale non so rispondere. Allora, adesso andiamo a una pausa per capire cosa succede in borsa con un po' di pubblicità, e poi ci raggiungerà anche Tobias Piller per farci capire i tedeschi cosa ci possiamo aspettare da Lufthansa, ma andiamo al punto vero, cioè che cosa aspettarci davvero dalla trattativa riservata che è in corso alla luce di quello che Lufthansa ha fatto con altri vettori europei quando li ha assunti nei recenti anni alle nostre spalle. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Allora, cari ascoltatori, avendo scoperto bilanci alla mano, i lunghi decenni, ricordato i lunghi decenni, ma questo era noto, in cui lo Stato si è occupato molto bene come gestore in controllo, per l'esercizio del controllo sulla società pubblica, e avendo visto poi qual è il problema che è iniziato a determinare dagli anni 70 in poi, cioè di fronte a un mercato che verticalmente decollava in termini di offerta e capacità quindi di altri di saperla inseguire sul segmento internazionale che si apriva alla liberalizzazione, poi dopo arriva anche quella ovviamente nei cieli europei, nei mercati domestici, ma delle prime difficoltà, ma avendo capito che in realtà fino alla fine degli anni 80 lo Stato non ci aveva rimesso, e avendo capito invece che poi i problemi vengono dopo, i problemi veri, cioè in cui si perdono 5 miliardi sui 6 rimessi dal pubblico, ricordiamo poi le botte clamorose di centinaia di milioni di euro ogni anno persi dai privati in questi anni, la domanda diventa: che cosa gli esperimenti recenti in questi ultimi anni di assunzione di vettori europei in difficoltà da parte Lufthansa devono indurci a pensare, professor Arrigo, su che cosa davvero vogliano portare a casa i tedeschi e con quale modello di compagnia per all'Italia rispetto a quello che hanno sviluppato loro per scelta, ma che ancora recentemente con quello che è successo a Berlin hanno dovuto ulteriormente rafforzare con quelli con la flotta che hanno acquisito da Berlin. Lei che pensa? Beh, intanto Lufthansa è un vettore di grande solidità, molto, molto efficiente, con da impiego a un numero elevato di persone, oltre 120.000 persone, 120.000 dipendenti, di cui grosso modo metà in Germania, metà negli altri paesi in cui opera, ha un fatturato di 32 miliardi di euro, quindi oltre 10 volte l'Italia, con profitti che si avvicinano ai 2 miliardi all'anno, quindi voglio dire un gruppo solidissimo, ottiene molti ricavi nella manutenzione, quindi fa manutenzione per se stesso ma anche per altri vettori. Nel solo catering fattura 3 miliardi. Quanto all'Italia? Ops. Cioè fattura come l'Italia solo nel catering, dà lavoro credo a 30.000 dipendenti solo in quel segmento lì, quindi è anche un vettore che esternalizza poco, che gestisce in maniera molto, secondo me, ammirevole. Bisogna però anche ricordare che fino a tutti gli anni 60 Lufthansa era più piccola dell'Italia, sì. Aveva una flotta più piccola, aveva meno passeggeri, quindi qualcosa è successo in questi decenni. Diciamo che c'è chi è stato più bravo e chi meno bravo. Loro sono decollati, noi no. Ma ha senso che Lufthansa rispetto a questo modello di sviluppo che ha perseguito e innestandovi dentro Swissair, Berlino eccetera eccetera, si prende anche handling di Alitalia? L'handling, ovviamente nel momento in cui prende delle parti di Alitalia è chiaro che se può farne a meno non lo prende, quindi prende solo quello che è essenziale. Io credo che Lufthansa potrebbe anche tranquillamente fare a meno di Alitalia, quindi non siamo essenziali per lei, però c'è sempre il rischio che qualche altro grande vettore low cost gli venga in mente di buttarsi sul lungo raggio, e allora quale occasione migliore che comprare? Però uno ce n'è lì al tavolo, EasyJet. Non credo che abbia il coraggio di fare il grande salto, bisogna essere un po' pazzi. È più Lufthansa che ha il coltello da parte del manico, per come la vedo io, con tutto rispetto per i signori commissari, a meno che i signori commissari sappiano che la politica ha già deciso di nazionalizzarla se Lufthansa non se la prenda alle condizioni di Roma. Io temo questa seconda opzione, ecco. Io temo questa seconda opzione, mi pare che tutto deponga sul fatto che viene portata avanti la trattativa con Lufthansa, però nello stesso tempo si fanno altre cose, insomma. I commissari hanno assunto dirigenti che non credo siano andati lì per qualche mese di lavoro. Mi ha colpito molto, colpito molto più questa cosa dei dirigenti piuttosto che il cambio delle divise. Il cambio delle divise, però anche quello è significativo, perché poi il contribuente vede più quello che non il cambio dei dirigenti di alto livello, e quindi si chiede, ma insomma era proprio essenziale cambiare le divise. Insomma, non è l'atteggiamento di un venditore di un'azienda in default. Questo è poco mai. Se poi voglio dire, chi arriva ha uno stilista suo che gradisce, che fa, lo ricambia ancora le divise pochi mesi dopo. Insomma, non mi sembra iniziamo a sentire come la pensa con l'area che tira in Germania e conoscendo la compagnia, o più che perché fa il corrispondente in Italia, Tobias Piller, che è il corrispondente in Italia appunto della Frankfurter Allgemeine Zeitung. Grazie Tobias di essere con noi. Buonasera. Che certo, ti aspetti? Non sono il portavoce di Lufthansa, ma qualche idea si può fare. Ecco. Sì. Il punto è certo... La Lufthansa non mi sembra interessato a prendere all'Italia tale quale, perché all'Italia è fallito tre volte in pochi anni, e questo vuol dire che così com'è non può sopravvivere. E i tre criteri visti dalla Lufthansa che fanno pensare sono l'influenza politica sull'azienda a Roma, la sindacalizzazione con 10 sindacati, e la cultura aziendale molto statalista ancora. Poi la Lufthansa pensa invece in un altro modo: se c'è un pezzo di mercato che si liberasse con un crollo di Alitalia, sarebbe certamente una fetta di 20% del mercato libera. E come si riempie questa offerta così? E certamente ci vuole nuovi aerei e nuovi equipaggi. Soprattutto per equipaggi non è così facile così produrseli da solo, e in quel senso è interessante per una Lufthansa dire: io posso prendere dei equipaggi e degli aerei dall'Alitalia, e così aumento subito l'offerta sul mercato italiano. Cosa è interessante lì per Lufthansa? La Lufthansa ha questi hub più grandi, che sono Francoforte, Monaco di Baviera, ma anche quelli piccoli come Zurigo o Vienna, e potrebbe anche farne uno piccolo a Fiumicino. E questi così Lufthansa in quel senso potrebbe connettere l'Italia con tutto il mondo. Già oggi ci sono tanti imprenditori italiani che prendono alle 6 del mattino nella loro città un volo Lufthansa per Monaco o per Francoforte, e lì alle 10, alle 11 poi si apre così tutto il mondo per loro. E questo non si può fare a Parigi, perché a Parigi bisogna cambiare aeroporto da uno all'altro. Sì, sì. E così anche ma il fideraggio del business del nord Italia si è in questi anni crescentemente rivolto agli hub tedeschi. Certo, è anche un vantaggio poi per l'Italia, perché è una cosa se uno si mette nelle mani di un EasyJet o Ryanair che dice: vabbè, o volo a Parigi-Trapani, ma posso anche volare da Glasgow a Budapest, chi mi dà di più? E questo sono voli così da un punto all'altro, non è una granché di rete con voli che si può cambiare. Allora questi sono così non solo prezzi bassi, ma anche passeggeri che pagano prezzi bassi, mentre imprenditori e turisti con più soldi si affidano più a una Lufthansa con la sua rete. E una rete così, una volta costruita, non si può neanche smantellare così facilmente. Non si può fare il ricatto di ogni giorno all'Italia: datemi un sussidio, altrimenti non volo più. Questo non si fa in questo modo. In quel senso sarebbe un'operazione più stabile e potrebbe inserire l'Italia ancora di più in una rete che va sul mondo. Dall'altro lato, certamente la Lufthansa non vuole accollarsi i vecchi prassi, i vecchi ricatti, i vecchi problemi della vecchia Alitalia. Allora, mi pare che per i commissari è un bel problemino se la politica nel frattempo è decisa a tenere duro. Professor Arrigo, però quello che dice Tobias Piller le torna? Cioè... Sì, io sono d'accordo. Nel senso che comunque il modello di business, il modello operativo delle compagnie è molto diverso tra Lufthansa, che è una compagnia tradizionale con una grande rete internazionale, intercontinentale, e un vettore low cost che nel caso di EasyJet è più serio rispetto a Ryanair, però comunque ha creato il suo successo con collegamenti di breve raggio in un mercato liberalizzato, ma senza un'ottica di rete, quindi di garanzia di coincidenze, garanzia di una qualità del servizio elevata e per chi ha bisogno di voli di interconnessione. Quindi va benissimo per il turista, per lo studente Erasmus, eccetera. Ma non per il business di lungo raggio. Certo. Allora, iniziamo a sentire qualche ascoltatore. C'è Francesco che ci chiama dalla provincia di Viterbo, mi dicono. Francesco, prego. Sì, buonasera. Buonasera. Io credo che la soluzione migliore sia proprio quella di rendere l'Italia di nuovo pubblica. Il problema, secondo me, principale è stata la carenza di grandi menti dopo gli anni 70 in Italia, perché sono tante le aziende che dopo gli anni 70 e 80 sono, non diciamo crollate, però sono scese a livello molto basso. Anche l'Italia stessa era più grande negli anni 70, era più grande di Lufthansa. Io credo che qualsiasi compagnia estera che possa prendere l'Alitalia, per quanto possa avere dei piani ottimi per la compagnia, Alitalia resterà sempre comunque una costola di questa compagnia, non potrà svilupparsi più di tanto, perché potrebbe andare in contrapposizione con la compagnia stessa. Quindi secondo me, o a livello privato o a livello pubblico, la nostra compagnia di bandiera dovrebbe rimanere in Italia, ma con una classe dirigente capace. Francesco, di poter io mi limito a dire questo. Le compagnie di bandiera non esistono più da che abbiamo liberalizzato i mercati, ma detto questo, l'idea che all'Italia faccia concorrenza oggi a chi ha avuto una linea di sviluppo pluridecennale facendo utili e reinvestendo sul mercato di lungo raggio con le forze a cui oggi è ridotta e non avendo capacità finanziaria per comprare decine e decine e decine e decine di velivoli di lungo raggio è una finzione. Questa è mi spiace doverlo dire, però è una finzione. Quindi a oggi la vera alternativa, se non vogliamo buttare di nuovo soldi pubblici, è buttare. Significa che l'esperienza, come si vede, è che avere un modello full service, cioè da compagnia tradizionale non low, quando non si può stare nel lungo raggio perché non si hanno le risorse per poterci stare visti gli anni persi, come quando la Fiat saltava i cicli di investimento e di lì sono diventati terrificanti i suoi problemi, tanto ad arrivare tra 2004-2008 due volte quasi al default. Il problema è analogo, anche se il business è molto diverso. Allora, quindi l'idea è no alla costola perché noi siamo concorrenti. Noi non abbiamo le capacità per essere concorrenti con quelle compagnie lì. L'alternativa vera è, se la ristatalizziamo, queste condizioni non si creano, perché lo Stato, a meno che lo Stato non decida di metterci pacchi di miliardi, io credo che ci siano altre priorità che tornare a gestire il trasporto aereo, però lo penso io. Altrimenti l'alternativa è tra una vendita a pezzi o la vendita comunque alle migliori delle condizioni, ma integrandosi in un modello europeo in cui gli altri siano preminenti nel lungo raggio, si conferiscono i velivoli all'Italia del lungo raggio e si entra in un modello regionale e continentale di fideraggio, di hub, chiedendo un hub anche per noi. Questo mi sembra realismo, perché altrimenti io penso, le faccio questo esempio, di manager pubblici prima del disastro pubblico finale, che chiesero alla politica di fare delle scelte, per onestà, siccome io li ho conosciuti tutti facendo il mio mestiere, ce ne sono stati, perché Mengozzi, Ciampella, dissero all'azionista pubblica: noi non reggiamo più, dobbiamo accettare l'idea e trattare al meglio, in condizioni che non erano ancora quelle di default, anche se di anno in anno peggioravano, la scelta di una compagnia europea con cui integrarci. KLM, ve lo ricordate all'inizio? Mengozzi. La politica disse no, i sindacati dissero no. Poi si aprì la partita a più tappe, tutte saltate, di Air France, che nel frattempo aveva integrato KLM, KLM intelligenti se permettete, e ogni volta saltò sempre per aria la politica e i sindacati. Questi errori derivano dal fatto che la politica non seppe decidere, i manager glielo proposero pure perché si rendevano conto, non erano degli incapaci totali, ma si rendevano conto di quello che stava avvenendo nel grande mercato internazionale del consolidamento aereo, e la politica ogni volta per la bandierina dell'orgoglio di elezione in elezione disse no, no e no. Risultato: ha fallito prima la proprietà pubblica e poi i privati. Allegria. Però non dimentichiamoci, però io so che, caro ascoltatore, lei probabilmente sta interpretando di nuovo la pulsione maggioritaria della politica italiana e magari anche della maggioranza degli ascoltatori degli italiani. Io questo non lo so, non è che io mi illuda, però per dire, non è che ci sono stati dei cretini solo, perché quelli tentarono di spiegare: facciamo l'accordo con gli olandesi? No. Facciamolo con i francesi? No. Ed ecco poi perché. Allora, adesso andiamo a vedere che cosa succede sul traffico e torniamo. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta. Sentiamo ancora Giacomo che ci chiama da Palermo. Giacomo, prego. È caduto anche Giacomo? Alessandro che ci chiama da Roma. Alessandro, buonasera. Buonasera Oscar, buonasera Ugo. Sono Ugo, il professor Arrigo si ricorderà di me, sono il produttore del documentario Tutti giù per aria. Ah. Sul caso Alitalia, dedicato proprio appunto al fallimento di Alitalia, esattamente. Esatto, per chi se lo ricorda quel documentario. Cioè, vorrei dire alcune cose e alcune imperfezioni che hai appena affermato tu, Oscar. Sì. Che il caso, il tavolo in Francia non fu fatto saltare dai sindacati, al contrario, fu fatto saltare da Berlusconi. La politica, per usare, sì. Sì, per usare l'italianità, questa presunta in italianità come, esatto, come strumento, certo, per produrre voti ed entrare, insomma. Infatti furono due in grandi meccanismi, sul caso Alitalia e poi un altro che funzionò come testa d'ariete per arrivare poi al governo. Ma attenzione, i dipendenti Alitalia erano ben contenti di entrare a far parte della, di quella che sarebbe diventata poi la più grande compagnia. Insomma. Insomma. Perché Air France, KLM e Alitalia sarebbe diventata la più grande compagnia del mondo. Per giunta vi erano altre soluzioni che la vendita, oppure il regalo fatto a questi presunti cavalieri bianchi, questi capitani coraggiosi bianchi, che avrebbero con un enorme portafoglio del contribuente che li ha sostenuti, tra l'altro, oltre che con violazioni dell'antitrust a loro vantaggio e così via, con la tassa sui viaggiatori in ogni volo che abbiamo istituito grazie a quello. Fai benissimo a ricordarlo e ti ringrazio. Però insomma, diciamo la verità, la resistenza ad Air France in entrambe le volte che si è aperto e si è toccato le cose di Air France c'era anche dentro, come c'era su KLM. Poi è stata la politica, su questo hai perfettamente ragione tu, Alessandro, io l'ho detto infatti due veri fattori, però la politica ha sempre detto no, mentre invece Iberia fondendosi nel gruppo IAG con British ci ha guadagnato o ci ha perso? Ma ci ha guadagnato, la stessa cosa vale per gli olandesi. Un minuto a testa di nuovo ai nostri due ospiti, comincio da Tobias Spiller. La politica tedesca ha voce in capitolo sulle scelte di Lufthansa? No, non tantissimo. In Germania c'è stato grande opposizione su questo ruolo pesante che Lufthansa ha adesso, quando si stanno suddividendo i cocci della Air Berlin. Così anche il mio giornale ha sparato a zero su Lufthansa, così più monopolista di prima. Così. In questo la politica cerca di stare fuori, non mischiarsi in questo, nella gestione. Magari la politica deve poi intervenire quando sia il sentore di questioni nazionaliste, blocchi e così via. Questa è un'altra storia, ma in generale la politica non gestisce Lufthansa. Quindi scordiamoci che ci siano, la politica possa bypassare dall'alto la compagnia. Arrigo, quanto ci è costato non seguire la strada che hanno seguito gli spagnoli e gli olandesi? Ma diciamo, io ho provato a rifare i conti della mancata integrazione con Air France KLM del 2008 ed è il conto più salato, perché sono, considerando anche i mancati introiti fiscali a causa del ridimensionamento di Alitalia, e quindi diciamo così, oggi i passeggeri sono trasportati molto di più da vettori esteri e vettori low cost, i quali non pagano le tasse in Italia, il conto è tra i 6 e i 7 miliardi. Ecco. Quindi è maggiore rispetto a tutte le perdite dello Stato sino al 2008. Va bene, allora su questa base, e avendo capito che il professor Ugo Arrigo e molto più modestamente Oscar Giannino pensano che ci stanno, non dicendolo, ma lo stanno rinazionalizzando, e secondo me è la premessa di un disastro epocale aggiuntivo, ma questo lo penso io, grazie a Ugo Arrigo, a Tobias Spiller, grazie a voi che siete in ascolto, appuntamento domani alle 8:15 come tutte le mattine con me Luca Telese, 24 mattino, e poi pomeriggio, domani sarà una puntata straordinaria, il pomeriggio alle 4 la versione di Oscar, vedrete, a domani.